bandiera e chi se passa e da che fa con nu scansate ciga i mode carriera siamo sbiati e non ci fermiamo più temente non tenimo di nessuno nimo paura degli io 4-1 le cocozze le la squadra de belle ragazze curate, urlate in su con noi, le cocozze le. I nuovi intanni ci piace io pallone, lo vino le ragazze lo canta, taglio lago fino a io serone, io urlo della vittoria d'arriva, ci sta Pasquale, ci getto con Pippone. Nicola in porta ci sa proprio fa. Son padre eterni mica pizze frelle, sugli campioni delle cocozzelle. Le cocozzelle, la squadra del mio cuore. Belle ragazze curate,